GR Sport. Buongiorno a tutti da Carlo Genta. Il Manchester United è campione d'Europa, ma solo ai rigori il Chelsea si arrende nella finale di Mosca. Per i Red Devils è la terza Coppa dei Campioni. Al termine di oltre 120 minuti di gara, dopo 14 rigori calciati, i Red Devils hanno avuto la meglio sul Chelsea, conquistandosi il diritto ad alzare la Coppa dalle grandi orecchie. Partita splendida e dai due volti quella di Mosca. Nella prima frazione il Manchester ruba la scena, passa in vantaggio con la stella Ronaldo e va vicinissimo al colpo del KO, evitato due volte da un fantastico check. Proprio in chiusura del primo tempo arriva inaspettato il pareggio del Chelsea con Lampard, un gol che galvanizza i Blues, che nella ripresa sembrano un'altra squadra. Baricentro più alto, squadra più corta e gioco più veloce, questa volta a essere alle corde il Manchester. Al 77esimo Drogba colpisce il palo, si va ai supplementari sull'1-1. Al terzo del supplementare ancora Chelsea vicinissimo al vantaggio, ancora un legno colpito questa volta da Lampard che prende la traversa. Nel secondo supplementare principio di rissa in campo, Drogba viene spedito anzitempo sotto la doccia per una manata a Vidic. Ancora 1-1, si va ai rigori, Cristiano Ronaldo il primo a sbagliare, Terry è il match point ma scivola al momento del tiro e si va a oltranza con il gol di Giggs e l'errore di Anelka che fanno salire il Manchester sul tetto d'Europa. Guglielmo Timpano, GR24, il sole 24 ore. La finale di Coppa Italia si giocherà come previsto sabato sera alle 21 e sarà aperta alle tifoserie di Roma e Inter. Il pericolo di scontri però rimane alto, come conferma la scelta dell'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive di attribuire all'incontro appunto il massimo livello di rischio. Andiamo ora al mercato. Amaury è praticamente della Juventus. Ieri, dopo l'incontro tra il procuratore del giocatore Mariano Grimaldi e l'amministratore delegato bianconero Blanc, sono stati limati gli ultimi dettagli economici e contrattuali. Rimangono solo alcune clausole minori, ma contestualmente si è aperta anche la strada che porta Lanzafame al Palermo. Saranno lui e Nocerino, più 13 milioni di euro la contropartita per Amaury. Intanto c'è una clamorosa proposta del Barcellona all'Inter, uno scambio tra l'attaccante Samuel Eto'o e il difensore romeno Cristian Chivu, da sempre pallino di Pep Guardiola, nuovo tecnico del club spagnolo. Sulle tracce di Eto'o però c'è anche il Tottenham. Ora tutti al Giro d'Italia, ieri piogge e cadute, vince Bertolini per Visconti, radiografie in maglia rosa. Ieri è successo di tutto ma non è accaduto niente, tappa dura, durissima quella da Urbania a Cesena, salita, tanta salita, discesa, tanta discesa ma anche tanta pioggia, freddo e gelo, attaccano fin dalle prime battute Contador, Di Luca e Riccò, se le danno di santa ragione, cadono a più non posso ma alla fine il risultato è che all'arrivo arrivano tutti malconci con abrasioni, botte e lividi ma in classifica generale non cambia nulla, la maglia rosa è sempre sulle spalle del livido e dolorante campione d'Italia Giovanni Visconti che ora ha un vantaggio di 5 minuti e 50 secondi su Gabriele Bosisio. Oggi tappa di trasferimento verso le montagne di dopodomani, da Forlì a Carpi in onore di Dorando Petri, il maratoneta eroe delle Olimpiadi di Londra 1908. Tappa per velocisti, tappa per Daniele Bennati che cerca il tris in questo giro, sempre che Bettini ne trovi il guizzo giusto per rovinargli la festa. Piero Augusto Staggio, GR24, il sole 24 ore, Forlì. E questa sera alle 21 il via alle semifinali scudetto di basket. L'Armani Milano prova l'impresa ai limiti dell'impossibile a Siena. Più equilibrata pare l'altra serie tra Roma e Avellino. Si gioca al meglio delle 5 partite. Nella pallanuoto invece siamo alla gara 1 della finale. La Prorecco ha battuto 9-4 la Leonessa Brescia. Anche qui serie al meglio delle 5 gare. È tutto per GR Sport. Di nuovo buona giornata.